Ad ogni modo, in questa funzione di maggiordomo dico, tocca a me fare le presentazioni e in primo luogo qui alla mia sinistra è il senatore Bruno Ghes, il presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, che è diciamo la casa madre dell'Istituto Italo-Germanico, e poi c'è il professor Vandusca, che è il presidente del Comitato Scientifico dell'Istituto Italo-Germanico, quindi il nostro diretto supervisor, eccetera. E il relatore senatore Vagliani, coordinatore anche insieme al professor Brack, che alla sua sinistra, dei lavori di questa settimana. Con questo, sono chiari, ma forse l'avrete già capito dai bandi, anche i metodi con cui lavoriamo, cioè due coordinatori, diciamo quei due squadre di relatori e due squadre di borsisti che non si devono affrontare ma il più possibile integrare per farsi che il seminario riesce. Il seminario riesce quando proprio questo confronto culturale è davvero fertile nella discussione. E qui sono già passato al metodo, e appunto non è un congresso, ripetiamo sempre, non è un convegno in senso formale classico, è un seminario, ecco, da qui deriva il fatto che ogni mezza giornata c'è solo una relazione, e abbiamo tenuto duro nonostante tutte le pressioni a un ampliamento delle relazioni, perché la cosa più importante è la discussione, cioè, è la discussione e lo scambio di vedute tra ricercatori più giovani e ricercatori meno giovani. Ecco, la presentazione poi insieme sarà fatta al termine della relazione di Vagliani, prima di cominciare la discussione, insomma, la presentazione dei borsisti, eccetera, con, no? Andreoli, assessore. In prima fila abbiamo i due responsabili, il segno provinciale, l'assessore Andreoli, alle attività culturali, ecco, che è qualcosa di più per noi, ecco, perché è diciamo così parte del nostro istituto fin dalla fondazione, insomma, ecco, ci ha seguito passo per passo nella sua funzione di segretario anche dell'Istituto Trentino di Cultura e di direttore amministrativo dell'università, e il dottor Pietracci, che è assessore del comune, e quindi così ci porta anche il saluto della città, in modo con la sua presenza così efficace. Dalle presenze alle assenze, ecco, mi limito al telegramma del presidente della provincia autonoma, il quale, dopo aver parlato della sua indisponibilità, dice: sarò veramente grato se vorrà portare al senatore il professor Vagliani il più cordiale benvenuto e il saluto più vivo il mio personale della giunta provinciale. A tutti voi l'augurio che il seminario abbia il meritato successo e torni di utilità come la stessa auspica gli intellettuali e gli uomini di cultura della nostra regione. Cordialmente, Mengoni, presidente provincia autonoma. Il calendario rimane con alcune piccole modifiche che voi trovate poi nella nuova edizione che sarà distribuita adesso, che stiamo fotocopiando. L'unica modifica è, per l'assenza del professor De Felice, un certo scambio, insomma, di relatori. E il professor De Felice mi ha scritto una lettera in cui diceva: dice, dispiaciuto di essere dovuto partire per gli Stati Uniti. Il Ministero degli Esteri mi spedisce a Washington per un convegno internazionale sull'Olocausto, unico italiano, eccetera, eccetera. Sì. Si scusa. Dei problemi pratici ne parleremo man mano. Le giornate di un modo sono divise in due, dalle 9 alle 13, per sé poco, insomma, con un intervallo naturalmente in mezzo, la colazione alle 13.30, la ripresa alle 15 e dopo altre 3 ore circa, insomma, dipende poi dalla lunghezza della discussione, la conclusione. Mangiamo a mezzogiorno qui vicino, e quindi ci staremo durante la giornata qui in città, invece voi avete trovato tutte le istruzioni. Se ci sono problemi pratici, la segreteria è sul primo piano e quindi potete rivolgervi alla segreteria. nelle presentazioni ho fatto come al solito, ma chi mi conosce lo sa, un'altra gaffa, cioè ho dimenticato con il signor Wiesentheiner in rappresentanza dell'arcivescovo, e quindi mi hanno scuso, ma pensando sono assolto. Per la prima volta in sostanza che ci cimentiamo nella storia dei decenni fra le due guerre, prima direi tutti i seminari dell'istituto hanno avuto un riferimento al periodo fino alla prima guerra mondiale, insomma questo lo sa appunto il professor Vandus che nel comitato scientifico chi ha portato avanti l'idea di questo seminario e quindi è avvenuto dopo questa scelta, dopo anni di riflessione. Noi abbiamo la speranza che proprio questa lenta gestazione, con gli sviluppi che ci sono stati in questi anni a proposito di questo tema così centrale per la vita dei nostri paesi, proprio questa lunga gestazione possa dare al seminario il significato sia di un bilancio, di un importante lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni, sia di premessa per un successivo salto in avanti. La parola al Presidente del DC, senatore. Molto brevemente, anche perché io non so quale livrea dovrei indossare, no? Comunque rappresento il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura, che è appunto, come diceva Prodi, la casa madre anche dell'Istituto Storico Italo-Germanico. E mi limito innanzitutto a porgere a nome dell'Istituto un cordiale benvenuto a tutti coloro che sono intervenuti, alle autorità in primo luogo che sono state menzionate, non voglio fare l'altro, comunque che ringrazio. Poi un benvenuto particolare naturalmente io mi permetto di dare al nostro senatore Valiani, che già la seconda volta che viene qui siamo particolarmente lieti, e se consentite lo rivolgo anche in modo particolare perché è anche adesso mio più illustre collega in Senato, al professor Bracher che è l'altro coordinatore di questo importante seminario, e poi a tutti i relatori, innanzitutto anche con il ringraziamento più vivo per la collaborazione senza della quale naturalmente queste cose non sarebbero fatte, e così pure i nostri ospiti, vedo il professor Matucci in modo particolare, mi fa piacere che sia con noi in questi giorni. Poi un benvenuto anche un po' particolare, vorrei dire quasi soprattutto, ai sei borsisti di lingua tedesca e ai sei borsisti, e gli otto borsisti di lingua tedesca e gli otto borsisti di lingua italiana che sono qui. Questa volta naturalmente, come diceva Prodi, si è impegnato l'Istituto in un seminario, ecco, come dico io, così da ignorante, diciamo, no? Che anche che riguarda un argomento, vorrei dire, più vicino, più attuale, in questo momento anche vorrei dire particolarmente sentito nello stato degli studi e degli interessi soprattutto che suscita. Quindi io sono certo, ringraziando ancora tutti coloro che hanno collaborato, naturalmente non parlo dell'Istituto, del professor Vandusca come presidente del comitato scientifico dell'Istituto e di Prodi come infaticabile segretario, ma mi auguro veramente che questo lavoro che vi accendete a fare sia un lavoro proficuo il più possibile e che possa anche rappresentare un contributo nel contesto così del dibattito, della ricerca che in questo momento soprattutto viene svolta. E chiudo soltanto qui, ancora augurando anche che, ma insomma queste settimane di settembre ormai un paio di volte che non sono come noi le avremo ordinate, speriamo che venga anche il bel tempo, in modo tale che anche i nostri ospiti da fuori possano anche trovarsi adeguatamente. L'Istituto comunque, come ha detto Prodi, lo ribadisco, è a disposizione per quello che possa occorrere, in modo tale che i vostri lavori e la vostra permanenza a Trento in questi alcuni giorni sia la più funzionale possibile al vostro lavoro ed anche, dico un pezzettino anche a una certa distensione, a un certo svago. Auguri. Grazie. Prego, professor Mandusca, e poi... Meine Damen und Herren, liebe Freunde, cari amici, wir haben mit diesem Seminar auch, beginnen wir einen neuen Abschnitt. Wir schließen einen Abschnitt und wir beginnen einen neuen. Wir haben voriges Jahr schon unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert, was für wissenschaftliche Institutionen, die doch eine gewisse Summe von Geld brauchen heutzutage gar nichts Selbstverständliches ist, dass es gibt viele Neugründungen, die diese 10-Jahres-Grenze nicht erreicht haben. Wir haben es voriges Jahr getan mit dem 20. Seminar und anschließend dann im November genau auf den Tag mit einer Feier, einer sehr bescheidenen Feier. Und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt mit dem 21. unserer September-Seminare. Also es ist doch eine beträchtliche Strecke, auf die wir jetzt zurückblicken dürfen. Ich will hier nicht wiederholen den Dank an den Präsidenten Kessler, der uns sozusagen die Hebamme auch gewesen ist, Levatrice, che è stata la nostra Levatrice del nostro Istituto, und an alle Teilnehmer der früheren Seminare, darunter mein lieber Freund Senator Valiani, der schon vor 8 Jahren hier mit mir zusammen ein Seminar, das über das Movimento Operaio e Socialista geleitet hat. Diese Seminare, Freund Prodi hat schon darauf hingewiesen, haben sich ja mit den politischen Bewegungen und Parteien seit der Entstehung politischer Parteien in unserem Raum, also im italienischen und deutschen Raum, im mitteleuropäischen Raum, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Mit dem heutigen Seminar über Faschismus und Nationalsozialismus findet diese Serie einen gewissen Abschluss, und es beginnt aber gleichzeitig auch etwas Neues, und wird sich dieses Seminar selbstverständlich sehr unterscheiden, schon vom Thema her, von den früheren Seminaren. Posso aggiungere qualche parola in italiano? Spero che i borsisti italiani, che gli amici italiani abbiano capito quel po' che ho detto in tedesco. E una cosa che come presidente del comitato scientifico di questo istituto mi sta specialmente a cuore è che ci sia veramente un incrocio. Cioè, noi abbiamo qui sempre il pericolo che ci sia che ci siano due congressi, due seminari paralleli, cioè se parla un italiano poi tutti gli specialisti italiani cominciano a discutere con lui, i tedeschi stanno zitto, se parla un tedesco tutti i tedeschi discutono con lui e gli italiani non parlano. Questo è un problema, come succede delle volte, non sempre, naturalmente c'è anche l'incrocio, e questa cosa più importante sarebbe appunto anche sempre il confronto, la discussione, la spiegazione da una parte e dall'altra, e credo che tutti questi che hanno preso parte in questi seminari sono d'accordo che tutti abbiamo imparato molto gli uni dagli altri, e come il buon uso alle università è già stato il buon uso sempre, molto prima del famoso 68, che sul livello scientifico esiste nella discussione la completa uguaglianza, e la parola di ognuno vale per quello che è, non per quello che per la posizione nella gerarchia accademica che uno occupa o non occupa. E in questo senso auguro un buon lavoro, e se posso aggiungere una cosa molto personale, prego di permettermelo, per me è veramente un grandissimo piacere di assistere a questo seminario con due amici, miei amici di vecchissima data. Ieri abbiamo constatato che il senatore Pagliani e io ci conosciamo, ci siamo conosciuti nel 63, cioè 21 anni fa, qui a Trento, proprio al congresso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, e con Dito Pracha siamo amici dal 41, quando ci siamo conosciuti in prigionia in America, cioè allora 43 anni fa, allora una vecchissima amicizia. E per me, dato le difficoltà che ci sono adesso con questi troppi congressi e troppe cose, per me è un grandissimo piacere che questi due eminenti conoscitori del problema, sia scientificamente e Vagliani specialmente anche personalmente, che ha vissuto e sofferto il periodo fascista, credo 6 anni in prigionia e confino, se si calcola tutto insieme, insomma oltre allo scienziato è anche un testimone personale, che sia possibile di averlo qui e di avere qui questi due amici che coordinano questo seminario. Grazie per la vostra attenzione.